your love. The way I feel it seeping all over me. This must be underwater love. The way I feel it. O que que é esse amor? I muri abbattuti diventano ponti, rileggendo Lord. This is it, underwater love. It is so deep, so beautiful in liquid. Esse amor com paixão. Ai. Esse amor com paixão. Ai, que coisa! E buonasera a tutte le radioascoltatrici del martedì femminista e lesbico autogestito. Qui al microfono Nancy, come al solito, per continuare la lettura di Zami, e al mixer, come al solito, Elisa, fedele a me e alla causa Zami. Sì, appuntamento, come ricordo sempre, bimestrale, il secondo e il quarto martedì del mese, ma non mi perdo in chiacchiere, un breve stacco, e continuiamo la lettura. Ormai siamo agli ultimi capitoli di questa bellissima biografia di Audre Lorde. Ricordo come ci si sentiva essere giovane e nera e gay e sola. In parte era positivo sentire di possedere la verità e la luce e la chiave di tutto, ma in parte era un vero inferno. Non c'erano madri, né sorelle, né eroine. Dovevamo fare tutto da sole, come le nostre sorelle amazzoni, a cavallo per gli avamposti desolati del regno di Hadomei. Noi, giovani e nere, belle, gay, ci siamo leccate le nostre prime ferite d'amore, da sole, senza una compagna di scuola o d'ufficio con cui potersi confidare nella pausa pranzo. Così come non c'erano anelli a rendere tangibile la ragione dei nostri segreti sorrisi felici, non c'erano nomi o motivazioni date o condivise per le lacrime che macchiavano i risultati del laboratorio o le cedole della biblioteca. Sapevamo ascoltare e non chiedevamo mai di fare un'uscita a quattro, ma ne lo conoscevamo le regole? Perché sembravamo sempre pensare che l'amicizia fra donne fosse abbastanza importante da dedicarle cura? Ci si muoveva sempre con il distacco necessario per far sembrare «cosa hai fatto questo fine settimana?» una domanda impertinente. Scoprivamo ed esploravamo da sole la nostra attenzione per le donne, a volte in segreto, a volte con sfida, a volte in piccole sacche che si toccavano quasi. Perché quelle ragazzine nere stanno sempre a sussurrarsi qualcosa o a litigare, ma sempre da sole, contro una solitudine più grande? Lo facevamo e basta. E anche se sopravvivevamo, diventando donne creative e toste, troppe di noi non sono sopravvissute affatto. Mi ricordo di Muff che se ne stava seduta sullo stesso sgabello, nello stesso angolo buio del Pony Stable Bar, a bere lo stesso gin anno dopo anno. Un giorno cadde a terra e morì di ictus proprio là, fra gli sgabelli. Scoprimmo dopo che il suo vero nome era Josephine. Negli anni 50, nel village, non conoscevo bene le poche altre donne nere apertamente gay. Troppo spesso ci ritrovavamo ad andare a letto con le stesse donne bianche. Ci consideravamo sorelle outsider, esotiche, che avrebbero guadagnato poco unendo le forze. Forse la nostra forza andava cercata nella nostra esiguità, la nostra rarità. Era così che andavano le cose in centro città, e il territorio fuori dal centro, ovvero la terra dei neri, sembrava lontanissimo e ostile. Diana era grassa e nera e bellissima, e ne era consapevole molto prima che andasse di moda pensare così. Usava la sua lingua crudele a suo grande vantaggio, sfoderando la sua verve terribilmente disinibita per demolire chiunque le si avvicinasse troppo. questo quando non era occupata a deflorare le vergini del vicinato. Un giorno notai il suo seno enorme che faceva pari col mio e la cosa mi fece sentire confortata anziché in competizione. Lo portava dentro una felpa del City College of New York e mi accorsi, profondamente scioccata, che qualcun'altra, a parte me, fra le ragazze gay del village, studiava segretamente in una delle università fuori dal centro, ovvero oltre la 14ª strada. Saremmo morte piuttosto che menzionare corsi o esami o qualsiasi altro libro diverso da quelli di cui parlavano tutte. Erano gli anni 50 e l'abisso fra la scena gay del village e gli studenti universitari era più profondo e acrimonioso delle differenze fra accademici e non. Non eravamo abbastanza, ma di certo ci provavamo. Ricordo di aver pensato a lungo di essere l'unica lesbica nera del village finché non incontrai Felicia. Felicia, con la sua faccia da suora mancata, magra e marrone deciso, sedeva sul mio divano sulla 7ª strada con le sue enormi ciglia che facevano due giri su se stesse. Mi aveva portato una coppia di gatti siamesi che avevano terrorizzato i suoi amici tossici ed etero, che vivevano in una rimessa sul fiume con due gatti, finché un giorno avevano portato a casa dall'ospedale il loro bambino appena nato e tutti e due i gatti erano impazziti, facendo avanti e indietro per tutta la barca, saltando su tutto, compreso lo scatolone in cui urlava il bambino, perché i gatti siamesi sono gelosissimi. Allora, invece di affogare i gatti, li avevano dati a Felicia, in cui mi ero imbattuta bevendo una birra al Bagatelle quella sera, e quando Muriel menzionò che mi piacevano i gatti, Flea insistette a portarli immediatamente da me. Sedeva sul mio divano con la scatola dei gatti e le sue ciglia arricciate, e io pensai fra me e me: se deve portare le ciglia finte, che le faccia sembrare meno finte. Presto decidemmo che eravamo davvero sorelle, il che era molto più che essere amiche o confidenti, soprattutto quando, rivangando i ricordi, parlammo di quando eravamo andate alla stessa scuola cattolica per 6 mesi in prima elementare. Mi ricordai di lei come la bambina tosta che nel 1939 arrivò in classe in mezzo all'inverno, portando scompiglio nella nostra noia e nelle nostre paure, troppo nette e limitate. Sorella Mary del Perpetuo Soccorso la fece sedere accanto a me, in prima fila, dove ero seduta da sola per via sia della cattiva condotta che della miopia. Mi ricordavo di quella piccola bambina che aveva fatto della mia vita un inferno. Mi pizzicava tutto il giorno, sempre, finché non sparì, a un certo punto, al tempo della festa di San Sviturno, il che mi sembrò un dono mandato dal cielo, per cosa poi non avevo idea, ma mi fece quasi riconvertire a Dio e alla preghiera. Felice ed io arrivammo ad amarci tanto, anche se la nostra relazione a livello fisico si limitava alle coccole. Tutte e due facevamo parte di quel gruppo freak di lesbiche a cui non interessavano i giochi di ruolo che le butch e le femme nere e bianche indicavano col termine dispregiativo di Kiki o di SDC. Kiki era anche il nome per le ragazze gay che andavano con i maschi per soldi, le prostitute. Flea adorava fare le coccole a letto, ma a volte feriva i miei sentimenti dicendo che avevo i seni villosi, e inoltre io e Flea ci ritrovavamo sempre a letto con altre persone, di solito donne bianche. A quei tempi pensavo fossimo le uniche gay nere al mondo, o almeno nel village, che all'epoca era uno stato mentale che si estendeva da un fiume all'altro sotto la 14ª strada e in alcune aree attraverso tutta la zona ancora adesso conosciuta come il Lower East Side. Da Flea e da altre avevo sentito raccontare storie di signore nere per bene che venivano in centro il venerdì dopo l'ultimo spettacolo alla Small Paradise a cercarsi una ragazza gay con cui esplorare i piaceri della selva e portarsela a Covent Avenue a passare le notti mentre i loro mariti erano a caccia, a pesca, a giocare a golf o a un corso di fine settimana. ma io ne ho conosciuto solo una volta, e i suoi capelli stirati e il marito super premuroso che l'aveva accompagnata quella sera al Bagatelle, dove la incontrai per un daiquiri e un piedino, mi fecero passare tutta la voglia, cosa piuttosto difficile da fare a quei tempi, quando nelle fredde mattine al settimo piano sulla settima strada sembrava mancasse un'eternità prima del prossimo letto caldo. Così le dissi che non andavo mai oltre la 23ª strada, avrei potuto dire oltre la 14ª, ma sapeva già che andava all'università, perciò pensai che dire la 23ª fosse abbastanza sicuro, perché lì c'era la sede in centro del City College di New York, che era l'ultimo baluardo accademico per la classe operaia. Nei bar gay del centro era una studente in segreto e una nera invisibile. Fuori dal centro, all'Hunter, era una lesbica in segreto e in generale un'intrusa. Forse in totale erano in quattro a sapere che scrivevo poesie, e di solito facevo in modo che se lo scordassero facilmente. Non è che non avessi amiche, anche buone. C'era un gruppo sciolto di giovani lesbiche, bianche, a parte me e Flea, che si frequentava, qualsiasi fosse il pezzo di mondo etero di cui ognuna per sé faceva parte. Non solo credevamo nella verità della sorellanza, quella parola di cui si sarebbe abusato così tanto 20 anni dopo, ma cercavamo anche di metterla in pratica, con risultati diversi. Tutte ci prendevamo cura delle altre, a volte con minore o maggiore comprensione, a prescindere da chi era invischiata con chi in qualsiasi momento. E c'era sempre un posto per dormire, e qualcosa da mangiare, e un orecchio teso per chiunque approdasse nella compagnia. E c'era sempre qualcuna che ti chiamava al telefono e interrompeva i pensieri suicidi. E questo è un modo come un altro di definire l'amicizia. Anche se in maniera imperfetta, provavamo a costruire una sorta di comunità nella quale almeno sopravvivere all'interno di un mondo che giustamente percepivamo come ostile. Parlavamo ininterrottamente di come creare quel mutuo sostegno che 20 anni dopo sarebbe stato discusso nel movimento delle donne come un concetto nuovo di zecca. Le lesbiche erano probabilmente le uniche donne nere e bianche nella New York degli anni 50 a fare un tentativo reale di comunicare fra di loro. Ci insegnavamo a vicenda cose il cui valore non era intaccato da ciò che non si imparava. A Flea, come a me, sembrava che amare le donne fosse qualcosa che le altre donne nere proprio non facevano. E se lo facevano, allora era in modi e luoghi a noi completamente inaccessibili, perché non riuscivamo mai a trovarle. Eccetto il sabato sera al Bagatelle, dove né Flea né io eravamo abbastanza di classe per essere notate. Le amiche nere etero, come Jean e Crystal, ignoravano il mio amore per le donne, oppure lo consideravano curiosamente d'avanguardia, o tolleravano, considerandolo un altro esempio della mia follia. Era consentito, a patto che non fosse troppo evidente e che non si riflettesse in alcun modo su di loro. Almeno il mio essere gay mi impediva di competere per qualunque uomo si trovasse nei loro paraggi. Mi rendeva anche molto più affabile come confidente. Non chiedevo mai di più. Ma soltanto quando c'era la luna piena o a mercoledì alterni ero davvero convinta di volere qualcosa di veramente diverso. Alcune di noi, credo Nick, Joan e io, ce ne stavamo al Bagatelle a bere una birra, cercando di decidere se avanzare piano piano verso la minuscola pista da ballo per un lento, tranquillo e intimo, cintura di pelle ad altezza pube e fibbia contro fibbia. Ma davvero volevamo eccitarci a quel modo con un lungo fine settimana alle spalle e il lavoro l'indomani? Quando io mi scusavo dicendo che ero stanca e che dovevo andare, cioè in realtà avevo un saggio d'inglese già in ritardo da consegnare il giorno dopo, sul quale avevo bisogno di lavorare tutta la notte. Questo non succedeva così spesso perché non andavo molto al Bug. Era il bar più popolare per le ragazze gay del village, ma io odiavo la birra e poi il buttafuori mi chiedeva sempre il documento per vedere se avevo 21 anni, anche se ero più grande delle altre donne con me. Certamente però non si sa mai con la gente di colore. E tutte saremmo morte piuttosto che dover discutere il fatto che era perché ero nera, dal momento che, ovviamente, le persone gay non erano razziste, Dopotutto, non sapevano forse cosa significava essere oppressi? Alle volte passavano delle donne nere sull'ottava strada, le invisibili ma visibili sorelle, o al Bag o al Laurel, e i nostri sguardi si incrociavano, ma non ci guardavamo mai negli occhi. Riconoscevamo la nostra appartenenza sfilando in silenzio, guardando dall'altra parte. Eppure eravamo sempre alla ricerca, Flea e io, di quel luccichio negli occhi, quella certa franchezza altrimenti proibita, quella assertività nella voce che ci avrebbe fatto dire: secondo me è gay. Dopotutto, non ce ne vuole una per riconoscerne un'altra. Ero gay e nera. La seconda condizione era inequivocabile: armatura, mantello e muro. Spesso, quando avevo il cattivo gusto di nominare quella cosa durante una conversazione con altre ragazze gay che non erano nere, avevo la sensazione di spezzare in qualche modo una sorta di legame sacro fra gay, legame che avevo sempre saputo non essere abbastanza per me. Con ciò non voglio negare l'intimità del nostro gruppo e nemmeno l'aiuto reciproco di quegli anni folli, gloriosi e contraddittori. È solo per spiegare che ero profondamente cosciente, dal problema del documento al Bag i venerdì sera ai giorni d'estate passati sulla spiaggia gay, dove ero l'unica a non avere la preoccupazione di una scottatura, che il mio rapporto come donna nera con le nostre vite condivise era diverso da loro e lo sarebbero stato comunque. La questione dell'accettazione aveva un peso diverso per me. Paradossalmente, una volta accettata la mia posizione di diversa rispetto alla società allargata e rispetto ad ogni singola sottocultura, nera o gay, sentivo di non dovermi più sforzare tanto, di essere accettata, di sembrare femme, di essere etero, di sembrare etero, di essere per bene, di sembrare carina, di essere piaciuta, di essere amata, di essere approvata. Ciò di cui non mi rendevo conto era di quanto più dovessi sforzarmi, anche solo per restare viva, o meglio, per restare umana, di quanto più forte fossi diventata facendo quello sforzo. Ma in questa società di plastica, antiumana, in cui viviamo, non ci sono mai state molte persone a cui piacciono le ragazze grasse, nere, nate quasi cieche e ambidestre, gay o etero. Anche poco attraenti, o almeno questo sembravano dirmi gli annunci su Ebony and Jet. Ma li leggevo comunque, in bagno, all'edicola, a casa di mia sorella, ogni volta che ne avessi l'occasione. Era una lettura furtiva, ma era l'affermazione di una parte di me, anche se frustrante. In ogni caso, se non mi piacerai mai abbastanza, se non piacerai mai abbastanza a nessuno, non importa tanto cosa ti azzardi ad esplorare. L'avevo già un po' imparato quando ero andata via da casa dei miei. Come quando le tue sorelle nere al lavoro pensano che sei pazza e fanno la colletta per andarti a comprare un pettine caldo o una piastra per stirare i capelli durante la pausa pranzo e ficcarli di soppiatto sul tuo armadietto nella sala dipendenti, così quando scendi per la pausa caffè più tardi e apri l'armadietto, quegli accidenti cadono a terra con un frastuono e il 95% dei tuoi colleghi in biblioteca, che sono molto ma molto bianchi, vuole sapere di che si tratta. Come quando un tuo fratello nero ti dice che sei una rompiballe e ti convince a salire da lui e cerca di farti contro i mobili da cucina solo, come dice lui, per farti scendere un po' dal piedistallo, quando tanto per cominciare eri salita da lui con la chiara intenzione di combinare solo qualcosa, perché tutte le ragazze con cui sapevo di avere una possibilità erano dannatamente complicate e io ero molto semplicemente arrapata da morire. Alla fine scampai lo stupro senza lasciarmi abbattere di essermi lasciata dietro un anello e una manciata di bugie, e fu la prima volta in vita mia, da quando ero andata via da casa dei miei, che mi ero trovata in una situazione fisica che non potevo gestire fisicamente. In altre parole, il bastardo era più forte di me. Fu un'immediata presa di coscienza. Come dicevo, quando le sorelle pensano che sei pazza è imbarazzante, e i fratelli ti vogliono aprire a forza per vedere come funzioni dentro, e le ragazze bianche ti osservano come un boccone esotico appena strisciato fuori dalla parete e approdato sul loro piatto, ma quanto gli piace strofinare le loro gonne aderenti contro il bordo della tua scrivania nell'ufficio del giornale letterario dell'università dopo le lezioni. E i ragazzi bianchi parlano tutti o di soldi o di rivoluzione, ma non gli si alza mai per bene. Allora, non importa tanto se i capelli li porti alla afro molto prima che il termine stesso sia inventato. Pearl Primus, la ballerina afroamericana, era venuta al mio liceo un giorno dopo le lezioni a parlare delle donne africane e di quanto erano belli e naturali i loro capelli arricciati nel sole, e seduta lì ad ascoltare una delle 14 ragazze nere del liceo Hunter, pensai: è così che deve essere la madre di Dio, e anch'io voglio essere così, e così sia. A quei tempi li chiamavo naturali e continuai a chiamarli naturali quando tutti dicevano che era folle. Fu un lavoro rigorosamente fatto in casa, sulla 125esima strada, da un sufi musulmano, fatto con le forbici da ufficio e con un risultato molto irregolare. Tornata a casa da scuola quel giorno, mia madre mi sculacciò e pianse per una settimana. Per molti altri anni a venire, gente bianca mi avrebbe fermata per strada o specialmente a Central Park per chiedermi se ero Odette, una cantante folk nera a cui non somigliavo per niente, eccetto per il fatto che eravamo entrambe grandi donne nere, bellissime, con i capelli portati al naturale. A parte mio padre, io sono la più scura della mia famiglia e ho portato i capelli al naturale dalla fine del liceo. Una volta trasferitami nella parte est della settima strada, ogni mattina che avevo 15 centesimi, andando a prendere la metro per andare a scuola, mi fermavo all'angolo di St. Mark Place, al Second Avenue Grilled, e compravo un muffin e un caffè. Quando non avevo abbastanza soldi, prendevo solo un caffè. Era un posto minuscolo con un bancone gestito da un vecchio ebreo di nome Saul, che aveva fatto il marinaio, fra le altre cose, e Jimmy, un portoricano, che lavava i piatti e ricordava sempre a Saul di mettere da parte i muffin secchi per me il lunedì. Me li davano per 10 centesimi. Tostati e gocciolanti burro, quei muffin e il caffè erano spesso il momento migliore della mia giornata. E certo, riuscivano a tirarmi giù dal letto molte mattine e a mettermi sulla lunga strada fino alla metro di Easton Place. Alcuni giorni era l'unica ragione per alzarsi e molte volte erano l'unica cosa che potevo permettermi. Per più di 8 anni abbiamo sparato un sacco di cazzate su quel bancone e ci siamo scambiati un sacco di idee e di notizie, e quasi tutti sapevano a chi mi riferivo quando parlavo di Jimmy e Saul. Entrambi vedevano le mie amiche entrare e uscire e non ne parlavano mai, eccetto qualche volta per dire: è passata la tua amica, mi deve 10 centesimi, e dille di non scordare che chiudiamo alle 7 in punto. Quindi l'ultimo giorno prima di trasferirmi finalmente dal Lower East Side, dopo aver conseguito il master in bibliotecotomia, andai a prendermi muffin e caffè per l'ultima volta e a dire addio a Saul e Jimmy in modo distaccato e per me sostenibile. Dissi a entrambi che mi sarebbero mancati, loro e il vicinato, e loro dissero che gli dispiaceva. E perché me ne andavo? Dissi che dovevo lavorare fuori città perché avevo ricevuto una borsa di studio per studenti negri. Saul alzò le sopracciglia in completo stupore e disse: ah, non lo sapevo che eri di colore. Continuai a raccontare in giro quella storia per un po', anche se molte mie amiche non riuscivano a capire perché la trovassi divertente. Ma questo dimostra quanto sia difficile a volte per le persone vedere chi o quello che stanno guardando, specialmente quando non vogliono. O forse ce ne vuole uno per riconoscerle un altro. Where in the water? Where in the water, children? Away in the water, and Lord, my God's gonna trouble the water. Why don't you wait in the water? Knees, and they took another step in the Jordan, and the water came into my waist, getting chilly. And then I took another step in the Jordan, water covered my head. And then I looked and saw a man on the Canaan side. He was making my dying bed. I said, wait in the water. Wait in the water, children. Wait in the water. And Lord, my God's gonna trouble the water. And Lord, my God's gonna trouble the water. You know, my God, they're gonna trouble the water. L'incontro tra me e Muriel sembrava predestinato. Quando Ginger e io stavamo facendo conoscenza alle macchine a raggi X vicino alla sala dei tagli, nel calore, nella puzza e nel rumore della Kingston Electronics, mi raccontava sempre di questa tipa fuori di testa chiamata Mo, che aveva lavorato alla mia macchina circa un anno prima. Era il suo modo di farmi capire che sapeva che ero gay e la cosa non era un problema per lei. Lei era come te. In che senso? Mi somigliava. Quanto sei divertente. Ginger mi aveva lanciato uno sguardo coi suoi occhi rotondi da bambola. È bianca, italiana, ma tutte e due siete tipe rilassate, con quel modo di parlare tranquillo. Solo che tu sei la bella gattina di città e lei è un prodotto rigorosamente locale. Diceva sempre che il padre non le aveva mai fatto odorare l'aria della notte fino a 18 anni. Scriveva pure poesie, dalla mattina alla sera e anche in pausa pranzo. Oh, non so come, sapevo che c'era dell'altro. Quello che Ginger non riusciva a dirmi era che a Muriel piacevano le ragazze. Vidi Ginger un'ultima volta prima di partire per il Messico. Mi disse che la sua amica Mo era tornata a vivere a Stanford perché aveva avuto un esaurimento nervoso a New York. Mentre io ero in Messico, Muriel cercava lentamente di riemergere da sotto il cumulo di elettroshock che l'avevano costretta a fare. Quando ricominciò a vedere le sue amiche a Stanford, Ginger si premurò di raccontarle di questa tipa fuori di testa di New York che ha lavorato alla tua vecchia macchina un anno fa e anche lei scriveva poesie. Quando tornai a New York dal Messico, ero piena di sole, determinata a riordinare la mia vita, e un giorno o l'altro tornammo in Messico, ovviamente da Eudora. Mi ritrasferii nel mio vecchio appartamento, senza ascensore, sulla 7ª strada, e cominciai la scoraggiante trafila della ricerca di un lavoro. Una domenica sera squillò il telefono e Rea rispose. «Una delle tue ragazze con la voce figa», disse, passandomi il telefono con un sorriso. Era Ginger e la sua voce roca non mi sembrava per niente figa. «Che mi dici, bella?» cominciò. «C'è qualcuno qui che ti vuole conoscere?» Ci fu una breve pausa e poi una risatina e poi una voce acuta, nervosa, che diceva «Pronto, Audrey?» Ci demmo un appuntamento. Quando aprì la porta sulla penombra che sapeva di malto del Page 3, era ancora presto e Muriel era l'unica persona al bar. Non somigliava a nessuna delle persone che avevo visto a Stanford mentre ci vivevo. I suoi occhi marroncini erano grandi e a mandorla, con ciglia folte che contornavano di scuro ogni occhio. Si affacciavano su un viso allungato dalle guance piatte, il cui pallore era reso più intenso dai capelli scuri, quasi lisci, che le incorniciavano la testa come un taglio francescano o una ciotola rovesciata. Le sopracciglia folte e nere si incontravano in un cipiglio. Come al solito, ero un po' in ritardo e lei mi stava aspettando. Muriel mi è sempre sembrata più bassa per via del suo modo di stare in piedi, con le spalle ricurve, tutta raccolta in se stessa. Teneva una bottiglia di birra e una sigaretta nella mano sinistra, con una fede d'argento sul mignolo maliziosamente abbarbicato al dito vicino. Quella sua posa diventò per me la posa di Muriel col dito fetale. La maglia al collo, alto, nera, le cadeva fin sotto la pancia, un po' tonda, sui pantaloni di lana spiegazzati di sottile gessato nero. Un berretto morbido, nero, le pendeva leggermente su un lato della testa e dai lobi delle orecchie, a malapena visibili, appena sotto i folti capelli lisci, luccicavano minuscole gocce d'oro. Sul banco, accanto a lei, c'erano una logora giacca di pelle scamosciata e sopra quella un paio di guanti di pelle nera foderati di pelliccia. C'era qualcosa di romanticamente arcaico in quei suoi occhi neri contrasti, e le sue scarpe basse coi lacci neri tirati a lucido le davano un'aria vulnerabile da scolaretta. Pensai che sembrava davvero strana. Poi, ricordando i giorni in cui io e Jenny avevamo vagabondato insieme per le strade recitando le nostre mascherate, mi accorsi d'improvviso che Muriel si era vestita da giocatrice d'azzardo. Quella che sembrava una malocclusione era solo lo spazio tra gli incisivi. Divenne visibile quando Muriel lentamente sorrise, caricando il volto di grande dolcezza. Il cipiglio sparì. La sua mano era asciutta e calda quando la strinsi e vidi quanto erano belli i suoi occhi quando si ravvivavano. Comprai una birra e ci spostammo sul davanti del locale e ci sedemmo a un tavolo. «Quelli sono pantaloni da gioco d'azzardo», dissi. Sorrise timidamente compiaciuta. «Sì, giusto, come lo sai? Non sono in molti a notare cose del genere». Sorrisi a mia volta. «Beh, una volta avevo un'amica con cui ci travestivamo tanto, sempre». Mi sorpresi, di solito non parlavo mai di Jenny. Mi raccontò un po' di sé e della sua vita, di come era venuta a New York 2 anni prima, poco dopo che la sua amica Naomi era morta, che qui si era innamorata, ammalata, e se n'era ritornata a casa. Aveva 23 anni. Lei e Naomi si erano incontrate alla scuola superiore. Le dissi che avevo 35 anni. Più tardi le raccontai un po' di Jenny. E in quella prima domenica sera al page 3 sulla settima, Muriel e io ci stringemmo l'una all'altra sedute a un tavolino sul davanti e versammo qualche lacrima per le nostre ragazze morte. Ci scambiamo timidamente il sottile fascio di poesie che avevamo portato come regalo di presentazione. Una volta in strada promettemmo di scriverci prima che Muriel andasse a incontrare Ginger e prendesse il treno per tornare a Stanford. «Ecco, prendi i miei guanti», disse impulsivamente, un attimo prima di correre nella stazione della metro. «Ti diventeranno fredde le mani mentre torni a casa». Esitai quando mi ficcò i guanti di pelle in mano con un sorriso quasi implorante. «Tienimeli per la prossima volta», poi sparì. Qualcosa sul suo viso mi ricordò di Jenny che mi dava i suoi quaderni. La sensazione più forte e persistente che ebbi di Muriel dopo che se n'era andata fu di una grande dolcezza nascosta e una vulnerabilità superiore anche alla mia. La sua voce delicata tradiva il suo aspetto burbero. Ero affascinata dalla combinazione di opposti, dal fatto che non faceva alcun sforzo per nascondere le sue debolezze e non sembrava nemmeno considerarle motivo di vergogna o strane o sospette. Muriel irradiava una tranquilla consapevolezza di sé che io scambiai per accettazione di sé. Il suo senso dell'umorismo era improvviso e accattivante, con solo lievi tracci del macabro celato dietro, e i suoi incisivi scherzosi erano arguti e senza malizia. Sin dal primo incontro, e senza alcuna spiegazione, Muriel mi fece sentire che capiva tutto ciò che dicevo. E anche, dato il peso enorme del mio dolore inespresso, gran parte di ciò che non riuscivo ancora a mettere in parole. Rea era ancora sveglia quando tornai a casa fischiettando. cos'è che ti rende così felice all'improvviso? Chiese in tono scherzoso, ed io mi accorsi che per la prima volta da quando ero tornata a casa dal Messico mi sentivo di nuovo leggera ed entusiasta. Due settimane dopo, una domenica sera, Muriel e io ci vedemmo a cena e poi andammo al Bagatelle. Frenetico e pieno di gente, era un buon posto per rimorchiare, ma mi era sempre sembrato un po' troppo caro per le mie tasche o troppo minaccioso da affrontare sola. Laurel e il Sia Colony e il Page 3 venivano chiamati bar. Il bug era sempre il club. La prima stanza in cui entrammo era già piena di fumo, sebbene fosse ancora presto. C'era un odore di plastica e vetro blu e birra e un mucchio di belle ragazze. Muriel ordinò la sua inevitabile bottiglia di birra e ne presi una anch'io, facendo finta di berla per il resto della serata. Né io né Muriel ballavamo, e la piccola pista da ballo nel retro del club era già affollata. Rimanemmo in piedi, sotto la volta, fra i tavoli e le ballerine, a parlarci, immerse nella sensazione di avere le altre donne intorno, alcune delle quali, come noi, si stavano senza dubbio innamorando. Presto mi adattai alla passione di Muriel per i bar gay. Tutte le volte che veniva in città, mi spiegò, ci veniva per andare di bar in bar. Non si sentiva mai veramente viva, eccetto nei bar gay, diceva, e ne aveva bisogno, come di una droga. Ciò di cui avevamo entrambe bisogno era l'atmosfera di altre lesbiche, e nel 1954 i bar gay erano gli unici luoghi di incontro che conoscevamo. Quando Muriel e io non stavamo parlando, rimanevamo lì, sentendoci un po' fuori luogo e cercando di sembrare rilassate e un po' disinvolte. Sembrava che ogni altra donna al bag avesse il diritto di stare lì tranne noi. Noi fingevamo, essendo solo in apparenza rilassate e alla moda e toste come doveva essere ogni ragazza gay. Completamente inavvicinabili nella nostra timidezza, non venivamo mai avvicinate e poi, a quei tempi, le lesbiche di solito erano poco socievoli, fuori del proprio piccolo gruppo. Non si sapeva mai chi era chi e la paranoia autoprotettiva del mercantismo era ancora diffusissima fuori della tradizionale conformista suburbia americana. A parte questo, girava sempre la voce di poliziotte in borghese che circolavano fra noi alla ricerca di lesbiche con meno di 3 capi di abbigliamento femminile addosso. Tanto bastava per farti arrestare per il travestitismo, che era illegale, o almeno così si diceva. La maggior parte delle donne che conoscevamo stavano sempre attente a mettersi il reggiseno, le mutande e qualche altro accessorio femminile. Non c'era motivo di scherzare col fuoco. La serata finì troppo in fretta e Muriel se ne tornò al suo lavoro part-time in un laboratorio di protesi dentarie a Stanford, promettendomi di scrivere altre lettere licenziose e creative. Io stavo ancora cercando lavoro, qualsiasi lavoro, e la mancanza di prospettiva era scoraggiante. Ero sopravvissuta a McCarthy e alla guerra di Corea, e la Corte Suprema aveva dichiarato illegali le scuole segregazioniste. Ma il razzismo e la recessione si frapponevano solidamente fra me e un lavoro, mentre giravo la città, in lungo e in largo, giorno dopo giorno, rispondendo agli annunci. Dovunque andassi, mi veniva detto che ero o troppo qualificata. Chi è che vuole assumere una ragazza nera con un anno di università? O senza esperienza? Come dici, cara, non sai battere a macchina? I lavori erano pochi per chiunque a New York quell'autunno, e per le donne nere erano ancor meno. Sapevo di non potermi permettere il lusso di odiare il pensiero di dover lavorare in un'alta fabbrica o in una macchina da scrivere. Feci domanda per un programma di pratica infermieristica, ma mi fu detto che ero troppo miope. Non capii alla fine se fosse un gesto di preoccupazione nei miei confronti o un'altra scusa per le loro scelte razziste. Attraverso un'agenzia di collocamento, alla fine, trovai lavoro nell'amministrazione in un ospedale, mentendo sulle mie abilità coi libri contabili, ma non fu un grosso problema, perché loro avevano mentito sulle vere mansioni da svolgere. Non dovevo assolutamente occuparmi dei libri contabili, ma dovevo essere la ragazza venerdì del capo amministrazione. La signora Goodrich era una donna autoritaria e incuteva un timore reverenziale. Era la prima donna a capo dell'amministrazione di un ospedale importante nello Stato. Aveva lottato duramente per raggiungere la sua posizione e le battaglie le avevano lasciato modi duri e freddi e poco tatto. Nel tempo libero, quando non dovevo consegnare qualche suo messaggio o comprarle il caffè o temperarle le matite, sedevo a una scrivania in disparte vicino al team di dattilografi a battere lettere per la compagnia di assicurazioni mentre aspettavo di essere chiamata per un'altra commissione. Rispondevo al telefono della signora Goodrich quando la sua segretaria era fuori a pranzo e lei mi aveva urlato e sbraitato contro fino a quando non avevo imparato a ricordare le persone con cui voleva e quelle con cui non voleva parlare. La signora Goodrich era una despota, una donna che aveva lottato a lungo e duramente per accaparrarsi un posto in un mondo a lei ostile come donna contabile. Aveva vinto con gli stessi mezzi degli uomini che aveva combattuto. Adesso era legata mani e piedi a quei mezzi, soprattutto rispetto alle donne. Per qualche sconosciuta ragione entrammo immediatamente in profonda competizione l'una con l'altra. Qualunque fosse il riconoscimento reciproco, non servì a renderci alleate. Le nostre posizioni erano chiaramente diseguali. Lei deteneva il potere in qualità di capo, ma io non battevo in ritirata. Era molto più complessa di una semplice avversione. Ero scandalizzata dal suo atteggiamento nei miei confronti e nonostante mi considerasse apertamente al di sotto delle aspettative, la signora Goodrich non mi cedeva al team delle segretarie e non mi lasciava in pace. La signora Goodrich mi diceva che camminavo come un boscaiolo e che facevo troppo rumore nei corridoi. Dovevo essere meno arrogante per il mio stesso bene e non ce l'avrei mai fatta nella vita. Dovevo imparare a essere puntuale, anche se la mia gente non era mai in orario. In ogni caso, l'ospedale non era il posto per me e avrei dovuto lasciare il lavoro e tornarmene a scuola. In una delle nostre poche conversazioni civili, le disse che non me lo potevo permettere. «Bene, allora è meglio che ti dai da fare qui, o finirai per strada in tempi brevi». Mi sentivo sprofondare quando mi faceva una lavata di testa per gli errori di battitura davanti a tutte le dattilografe. Poi mi chiamava nel suo ufficio, dall'altra parte del corridoio, per farmi raccogliere la matita che le era caduta. Sognavo di calpestarle la faccia con un punteruolo fra le dita dei piedi. Mi sentivo in trappola e furiosa. Avevo preso lavoro una settimana prima della festa del ringraziamento e le ultime settimane dell'anno furono un'agonia per me. La signora Goodrich divenne il simbolo del lavoro che odiavo. Non avevo mai davvero imparato a battere a macchina e arrivai a odiare lei con la stessa intensità. Da giovane ero affamata di sole. Andavo a piedi sul lavoro, camminando verso ovest alla Union Square e su attraverso Student Park, attraversando la 14ª strada. Alcuni giorni riuscivo a intravedere il sole vicino al fiume, ma non superava mai i palazzi prima che entrassi nell'edificio di pietra grigia. Era già tramontato quando staccavo. Ci davano il pranzo gratis nella caffetteria dell'ospedale, quindi non potevo uscire a mezzogiorno. Tornare a casa a piedi era una tristezza ricorrente. Le luci posteriori delle macchine lungo Second Avenue tremolanti come su un albero di Natale. Pensavo che se avessi passato la vita lavorando in posti come la Kenston Electronics e le Manhattan Hospital, sarei di sicuro impazzita. Non avevo ancora una soluzione, ma sapevo che ci doveva essere altre strade. Sul lavoro la mia unica arma era battene ritirata e io la usavo con l'irrazionalità di un adolescente ribelle. Mi addormentavo sulla scrivania a ogni opportunità e a ogni minima provocazione, di solito mentre battevo le lettere della signora Goodrich. Durante queste mini dormite battevo scampoli di poesie o frasi senza senso in mezzo a frasi compiute e formali. Non mi prendevo mai la briga di rivedere le mie lettere, ma le controllavo solo come fossero opere d'arte, ripassando l'occhio sul foglio per vedere che i margini fossero corretti e che non ci fossero errori di battitura. Le lettere arrivavano sulla scrivania della signora Goodrich per la sua firma, ordinatamente e correttamente battute a macchina, ma con dentro delle frasi spaventose. Egregio signore, le richieste di indennizzo si possono ottenere strani, dei venerano le ore della sera scrivendo all'ufficio centrale a... Avevo gli incubi del suono del citofono della signora Goodrich, seguito dalla sua voce profonda che mi convocava nel suo ufficio con un urlo. Nel frattempo, Muriel e io ci scrivevamo. Per essere più esatta, Muriel scriveva lettere lunghe, bellissime, e io le leggevo e me le godevo in silenzio. Le lettere liriche, rivelatrici di Muriel, contenevano una fame, una solitudine simile alle mie e la preziosa parafrasi della sua visione umoristica e prismatica. Arrivai a stupirmi e a deliziarmi della nuova visione che mi apriva su cose semplici e inaspettate. Rivedere il mondo attraverso il suo modo unico di esaminare attentamente le cose era come rivedere il mondo attraverso il mio primo paio di occhiali da bambina, infinite, meravigliose riscoperte dell'ordinario. C'era un dolore nel tentativo di Muriel di diventare se stessa che coinvolgeva il mio cuore. Sapevo come ci si sentiva essere ossessionata dal fantasma della persona che si voleva diventare, ma che si afferrava solo a metà. A volte le sue parole mi davano i brividi e mi facevano piangere. Giornata da lumaca in salita, ma arriva la sera. Sogno di te. Questa guida è una lebbrosa che impara a creare cose belle, aspettando la fine della mia disperazione. Sento un nuovo tipo di malattia adesso e so che è la febbre del volersi sentire intera. Le mie mani tremavano un po' mentre posavo la lettera e mi versavo un'altra tazza di caffè. Ogni giorno correvo alla cassetta della posta dopo il lavoro cercando una delle sue grosse buste blu. Lentamente, ma con costanza, Muriel divenne sempre più come una parte vulnerabile di me stessa. Potevo curare e proteggere questa parte perché era al di fuori di me, senza fare troppe scommesse sentimentali, sicura e imperturbabile dentro. Ad ogni lettera Muriel cresceva in me il bisogno di fare per lei ciò che non avevo mai creduto di poter fare per me stessa, persino mentre lo stavo facendo. Potevo prendermi cura di Muriel, potevo far funzionare le cose per lei, se non per me stessa. Con nessun intento e discernimento trasformai quella ragazza di vento e corvi nel simbolo di un surrogato di sopravvivenza e caddi innamorata come pietra da una rupe. Spedivo a Muriel pezzetti di carta con sopra frammenti di poesie. Alcune erano su di lei, altre no. Nessuno poteva capire la differenza. Muriel mi disse in seguito che pensava fossi proprio matta. Contavo i giorni fra le sue lettere che mi portavano parti di lei come regali speciali e molto attesi. Il 21 dicembre, in risposta alle sue preghiere e al sostizio, le spedì la cartolina di un'urna greca piena di pietre con su scritto «Devo avere assi al posto del cervello». Con quello intendevo che l'amavo. Più di 20 anni dopo incontro Muriel a una lettura di poesie in una caffetteria di donne a New York. La sua voce è ancora delicata, ma i suoi grandi occhi marroni non lo sono. Le dico, sto scrivendo una storia della mia vita e dei miei amori. Assicurati solo di dire la verità su di me, mi dice. Era la notte di Capodanno, l'ultimo giorno del 1954. Rea si era innamorata un'altra volta e avrebbe passato la serata fuori e anche il resto della notte, immaginai. Mi ero messa tranquilla a leggere e scrivere e ascoltare musica quando suonò il telefono. Buon anno! Era Muriel. Te ne rimani a casa stasera? La mia voce tremolava per la trepidazione e l'inaspettata sorpresa. Sì, più tardi vengono delle amiche. Vieni anche tu, dove sei? A casa, ma prendo il prossimo treno. Sentì la sua mezza risata calda e riuscivo quasi a vedere il filo di fumo e la ruga fra i suoi occhi. Devo chiederti una cosa. Che cosa? Le chiesi curiosa. No, lo devo fare di persona. Ora devo andare. Due ore dopo, eccola entrare in casa con un basco e sigaretta. L'appartamento esplodeva di risate e della voce di Rosemary Clooney. Hey there, you with the stars in your eyes. Love never made a fool of you. Corsi a prendere la giacca. Che bello vederti, disse. Ah sì? È per questo che sono venuta fin qui, perché non sono riuscita a capire quella cartolina. Che cosa intendevi? Bea e Lynn e Gloria erano arrivate col vino e l'erba e io le avevo presentate a Muriel mentre le versavo un bicchiere di Chianti. Bea e Lynn ballavano fibbia contro fibbia in mezzo alla stanza. Muriel, Gloria e io mangiucchiavamo dai contenitori del saporito cibo cinese portato da loro. Qualche minuto prima di mezzanotte spegnemmo il giradischi, portatile di metallo, e accendemmo la radio per sentire i festeggiamenti a Times Square e salutare il 1955, anche se tutte stavamo là a dire com'era borghese. Muriel mi regalò una copia del Signore degli Anelli di Tolkien, un bestseller underground che aveva rubato, mi spiegò, da una libreria di Stanford. Poi tutte ci scambiammo baci e bevemmo ancora un po' di vino. Rimettemmo la musica e cominciammo a raccontare storie folli di capodanni passati. Dovetti ammettere che quella era la prima vera festa di Capodanno, ma riuscii a dirlo in una maniera tale che alla fine nessuna mi credette. Verso le 3 del mattino avevano deciso tutte di rimanere a dormire. Srotolai il materasso doppio di Rea nel salotto e aprii il mio divano nella stanza di mezzo. C'era posto per tutte. Alla fine dovetti rifilare a Lynn uno dei tranquillanti della mia collezione di campioni gratuiti per i medici, perché continuava a dire che non aveva sonno e io ero determinata a voler essere l'ultima ad addormentarsi. Era stata una serata esaltante per me e nonostante l'anfetamina mi stava venendo sonno. Muriel era andata a dormire nella stanza di mezzo con tutti i vestiti addosso, perché questa era una casa strana, piena di persone strane, disse, faceta e in più molto timida. Le altre tre andarono a dormire in salotto. Avevo dato per scontato che Rea dormisse a casa del suo ragazzo. Sfortunatamente Rea e Art ebbero una grossa lite quella notte. Alle 4 di mattina, proprio quando tutte si erano finalmente calmate ed io mi ero rannicchiata sul mio scolorito divano letto verde accanto a Muriel, proprio in quel momento sentii la chiave di Rea nella toppa. Scattai in piedi, svegliandomi all'istante. Oh merda! Mi infilai la camicia e andai in punta di piedi in cucina, dove trovai la mia coinquilina sconsolata, con l'allegro vestito da festa, sgualcito e triste. Rea aveva il vizio di farsi storie d'amore con uomini il cui unico interesse era fotterla, letteralmente e metaforicamente. Era in lacrime. Art le aveva detto, mentre stavano a letto, che avrebbe sposato la figlia 19enne di uno dei loro compagni progressisti. A 31 anni Rea pensava fosse colpa della sua età. Io invece ero sicura che era perché Rea gli dava quello che voleva e la sua ragazzina no, ma non potevo dirlo a Rea nelle condizioni in cui era. E poi una parte di me era concentrata sullo stuolo di persone che c'era in casa e su come avrei spiegato la loro presenza a Rea. Non che dovessi dare spiegazioni in realtà, ma dopo tutto era sul suo letto che dormivano Bea e Lynn e Gloria. «È terribile, Rea», dissi prendendole il cappotto, «riscaldo un po' di caffè». «Mi passerà», disse Rea distrattamente, asciugandosi gli occhi e facendo un sorrisetto impavido. La sua chioma lunga, nera e voluttuosa era tutta spettinata. «Adesso voglio solo andare a letto». «Vedi», esitai per un momento, «c'è qualcuno nel tuo letto, tesoro. Sono venute delle amiche e tu avevi detto che non pensavi di tornare a casa». Gli occhi di Rea si riempirono di nuovo di lacrime mentre allungava la mano verso il portafogli e le scarpe che aveva arditamente tinto dello stesso colore del vestito, taffetà blu elettrico, solo qualche ora prima. «Ma le sveglio immediatamente», dissi subito, vedendola dirigersi verso la porta d'ingresso. Sua cugina viveva due piani sotto di noi, ma non sopportavo mai di vedere Rea piangere. Le faccio alzare subito. E fu esattamente quello che feci, il più velocemente possibile. Torpidamente le tre ragazze si alzarono e tutte insieme ci rimettemmo a letto, a cucchiaio, nella stanza di mezzo con Muriel. Rea andò nel suo letto a dormire il suo sonno turbato. A questo punto era quasi l'alba e per me ormai troppo tardi per dormire ancora. Comunque mi era tornata tutta l'energia e adoravo essere la prima a svegliarsi di mattina. Presi un Obetrol e mi misi a leggere in bagno fino all'alba. Superando in punta di piedi le donne addormentate, mi affacciai alla finestra del settimo piano della facciata del palazzo per guardare verso est, oltre le strade deserte, il cielo che rischiarava. L'aria era mite, per essere gennaio, e avvertì un vago odore di malto dalla fabbrica di mangime per uccelli di Yards Mountain, dall'altra parte dell'East River. Il disgelo di gennaio. Mi rammentò con un sussulto che la primavera era a soli 3 mesi di distanza, eppure sembrava lontanissima. Ero stanca dell'inverno, accesi la radio a basso volume. In quel giorno festivo davano solo vecchie notizie, a parte le morti per gli incidenti d'auto e i risultati della recente mozione di censura del Congresso contro McCartney. Mentre ascoltavo le previsioni del tempo, con temperature insolitamente alte, mi pulivo le scarpe con un pizzico di Dutch Cleanser, senza acqua, stofrinando con un vecchio spazzolino da denti. Pulire le scarpe era un rituale di Capodanno che mi ero portata dietro da casa dei miei, senza pensare o chiedermi il perché. Alle 8:30 svegliai tutte, tranne Rea. Ero impaziente di cominciare la giornata. «Chi ha bisogno dello spazzolino?» annunciai, tirando fuori la piccola scorta che tenevo da parte per occasioni del genere. Ero intimamente compiaciuta che Muriel vedesse quanto ero responsabile in ogni situazione, sempre pronta anche, proprio come il motto dei Marines. Era saputo che una 35enne poteva gestire qualsiasi cosa e io mi consideravo perennemente all'opera. Preparai il caffè come ero solita fare in Messico, usando pochissimo caffè e filtrandolo attraverso la retina di stoffa che mi ero portata da lì. Spensi la radio e accesi il giradischi mettendo su Cry Me a River, cantata da Roberta Sherwood, col volume molto basso, così da non disturbare il sonno irritabile e affannato di Rea. Noi altri ci sedemmo al tavolo della cucina, vicino alla finestra sul pozzo luce, a bere il caffè. I piedi ben piantati di Muriel sbucavano dai suoi jeans con le dita che facevano su e giù a ritmo di musica e la sua risata morbida e smusicale che si muoveva fra il fumo della sua onnipresente sigaretta. Bea e Lynn in salopette e camicia di flanella e Gloria nei suoi sandali spagnoli sulle calze di lana e i pantaloni alla zuava larghi, fucsia, di cotone, fatti a mano. Il tintinio delle collane e bracciali di legno di Gloria era l'eco contrappuntistico che faceva da sfondo alle conversazioni mattutine su politica, pettegolezzi fra lesbiche e l'avvento di nuovi tranquillanti nelle cliniche psichiatriche. La casa diventò ancora più calda quando la conversazione si accese e io mi alzai a preparare una bellissima colazione newyorkese. Mischiai le ultime 2 uova rimaste, ben sbattute, a ciò che era rimasto di cibo cinese. Aggiunsi un goccio di salsa foyong e un po' di latte in polvere e mescolai il tutto a una bella manciata di cipolle tagliuzzate e saltate nella margarina con tanta paprika e un pizzico di aneto per darle colore. Questa pietanza era una reminiscenza della domenica mattina e dell'intruglio di uova, cipolle e fegatini di pollo sminuzzati che mio padre chiamava entrée e che preparava per noi ogni fine settimana mentre mia madre e noi 3 sorelle eravamo alla messa domenicale. Dopo la colazione ci scambiammo lunghi saluti e auguri di buon anno e le altre 3 andarono via. Muriel e io sedemmo in cucina a parlare davanti a tazza di caffè nero perché aveva usato tutto il latte in polvere. Rea si svegliò verso mezzogiorno e io le presentai Muriel. Preparammo un caffè per Rea e lei e Muriel discussero i pro e i contro del marxismo, anche se Muriel insisteva nel definirsi apolitica, che io traducevo come ingenua, per circa un'ora mentre mi facevo un bagno. Rea si vestì e uscì per andare a cenare dei suoi, gli occhi solo un po' umidi. Spensi il giradischi e chiusi la porta a doppia mandata. Quindi Muriel e io, senza altri dubbi, andammo a letto insieme, nella luce acquea del primo dell'anno, nel salotto, sul letto matrimoniale di Rea. Il resto del giorno si dischiuse in un bocciolo d'amore, dal quale lei si levò come fiamma davanti a me. Non mi ero avvicinata a una donna dalle notti passate con Eudora a Cuernavaca più di 6 mesi prima. Rimanemmo aggrovigliate ed esauste dopo, ridendo e parlando concitate. L'amicizia e il calore fra noi fecero breccia nei recessi dentro me che erano stati chiusi e sigillati per sempre, credevo, quando Jenny era morta. Quando Muriel e io parlavamo, come ci capitava di fare, di Naomi e Jenny, tutte e due morte a 15 anni, lo spirito di quelle due ragazze morte sembrava innalzarsi dalla terra, benedirci e poi andar via. Sembrava che una solitudine speciale e terribile stesse finalmente lasciando la presa. Facemmo l'amore ancora e ancora e ancora, fermandoci solo per non accendere le luci all'imbrunire e dare da mangiare al gatto. Il sole tramontò e il calore aumentò, e la stanza intera sembrava illuminata dalla fragranza dei nostri corpi. Per ogni pena segreta di Muriel ce n'era una mia che le corrispondeva, e la similitudine delle nostre solitudini e anche dei nostri sogni ci convinse che eravamo fatte l'una per l'altra. Gennaio 1955. Mi girai e mi sollevai su un braccio. Guardai la dolce guancia dormiente e i capelli scarmigliati della donna raggomitolata dall'altra parte, un braccio sotto la testa. Mi piegai a baciare il ricciolo ricurvo sul suo orecchio e feci scivolare la lingua piano lungo i suoi capelli scuri sulla nuca fino a dove le coperte darpeggiavano le sue spalle. Con un sospiro e un sorriso lento, Muriel aprì un occhio mentre mi avvicinavo, sussurrando al suo orecchio: «Nelle Indie occidentali lo chiamano risvegliare la tua lucertolina». Più tardi chiamai la signora Goodrich dal letto, Muriel sonnecchiante accanto a me. Spiegai che ero malata e che non potevo andare al lavoro. L'intero dipartimento era stato avvisato dalla signora Goodrich l'ultimo giorno prima delle vacanze di assicurarsi che in nessun caso capitassero queste malattie. La signora Goodrich mi licenziò all'istante. You can cry me a river, yes, cry me a river. I cried a river over you. Well, you can cry me a river, yes, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, really drove me out of my head, and you never shed a tear. Remember, I remember things that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. So just to prove that you do, you can cry me a river, cry me a river. you said. Con questa splendida versione di Cry Me a River di Roberta Sherwood finisce qui questa puntata su Audre Lorde e su Zami. Io mi scuso, reduce da influenze varie, sono la prima critica di me stessa e quindi mi scuso per qualche imperfezione e qualche errore che c'è stato nella lettura. Capita soprattutto se si è reduci da qualche piccola malattia. Qui Elisa sta facendo dei gesti che io non vi dico perché mi sta ammazziando praticamente. Io comunque vi ringrazio per l'ascolto. Vi do appuntamento alla prossima lettura, vi diamo appuntamento alla prossima lettura che sarà appunto il 12 maggio, quindi il secondo martedì del mese. Io e Elisa vi ringraziamo ancora e adesso la sigla e vi auguro una buona serata. Vamos nadar e tudo dá. underwater love, the way I feel it, oh.